Beh, come va? Ciao Antone. E poi ieri non ci eravamo sentiti, ma è rientrato. Sono stato 2 secondi più che altro. Non è questione di smetterlo. È questione che bisogna fargli la, come si chiama? La mi viene in mente il nome adesso. Perché in FM esce lo speaker sale a 9 e invece in AM sale a 5. Se vogliamo fare la prova 2 secondi. E provo un po'. Ecco fatto, guarda un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6. Per me fa niente, sembra uguale. Sai che siamo vicini. Però lo smite tu, segna. A meno che non vale bene lo smite, il discorso è quello. Quello mi serve. Sto facendo il dubbio di quello. Che lo smite no, non si è adatto per questo apparecchio qua. Quindi mi toccherà metterci un coso. No, non è questo lo smite. E questo è un'antenna. No, lei è scelto. Aspetta un secondo, voglio togliere un gusto. Un attimo solo, ti posso dare subito. E io. Parla. No, in AM, sei in banda laterale. Che è vero, in AM sono così, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, siccome ti ho attenuato, in FM eri, che ne so, 7, e in AM sei, sì, Santiago 6. Presumo con potenza uguale, no? AM FM. Ma spiega meglio, praticamente in FM ti sale diverso rispetto alla M, così è? Sì, esatto, però cioè l'antenna a volte è come si muove col vento, se non parlo si muove lo smitter, sale e scende, capito? Adesso aspetta un attimo, no, aspetta, il controllo del stazionario un attimo, mi viene quel dubbio. Eia, controlla. Cinque volte. Ora. 5,5. 5 volte. Ora. Stazionario. Ecco, cazzo, c'ha ragione, 1,4, quasi 1,5 c'è di stazionario, e cos'è il problema? Ah vabbè, comunque non gli fanno niente all'apparato, cioè sale diverso lo smitter, però non è un problema. Per i finali, sai cosa ti volevo dire? Credo di aver sentito da uno che ce l'ha che la potenza in quell'apparato è regolabile solo in AM, mentre negli altri modi di emissione rimane al massimo, non è regolabile, solo in AM. No, perché aspetta un secondo. Aspetta 2 secondi. Col cazzo, c'ho 15 watt in FM e 5 in AM. Ah, ecco perché è più forte, c'ha più watt in FM, e allora è quello. Hai capito? 15, cioè, mi sembra un pochettino strana la cosa. Ci dovrebbe essere per forza qualche trimmer per fare la regolazione AM e FM, come c'erano tutti i barchini d'altronde, tipo RF Power, cioè AM RF Power, capito? Per aumentare, però quello non posso farlo io, quello va fatto tramite una persona che ha l'oscilloscopio e gli mette la tensione giusta ai finali, per la M, capito? Dunque 5 watt e mezzo quasi sì ce li ho, tondi tondi. E so la regolazione dello speed mi sale a 5, capito? Però l'assorbimento è giusto perché non si rivala. Dove sta questa scuola qua? Cioè è l'inverso di quello che sembra che c'è un cable in pratica. In AM ti tira fuori tanto per dire 10 watt, se sei a 10 watt, e poi di colpo se vai in FM te ne dà 50. Una cosa così. Sì, però vabbè, quello importante di uno smitter, tanto adesso che lo sai ti regoli, però quello importante di uno smitter è ricevere, dare controlli un po' veritieri, ecco, di segnale. A questo proposito io ieri ero nero, perché cosa ti avevo detto? Che avevo il TM999, o come si chiama, il riduttore di potenza ZG, ti ricordi? L'ho cercato per mari e per monti, in tutte le camere, in tutti i cassetti, è sparito, anche quello. Quindi anche se volessi mettere 100 milliwatt o quant'è, è regolabile per fare, per farti tarare lo smitter in ricezione, non è, è sparito, è sparito lo strumento. Dì che magari sarà in qualche altro posto, beh. E allora sai che quando fa pulizia tua zia lo sposta, magari ha spostato un'altra parte, non penso ci abbia buttato. Ma io ho guardato dove era possibile guardare, dove era umanamente possibile guardare, poi io l'ultima volta che l'ho visto era mesi fa, in estate era sul tavolo tondo, qua davanti a me, sul tavolo tondo, niente, sparito, guarda, ero nero, perché era utile anche per fare queste cose. E beh, comunque dallo schema si è capito qual è la taratura smitter di ricezione. Sì, ma non devo toccare un cazzo di ricezione. La ricezione è giusta. E la trasmissione devo regolarlo. Capito? Perché se lo metto in FM sale a 9, se lo metto in AM scende a 5. Il corso è questo, quindi in pratica devo trovare il trimmer che mi dia la potenza in AM, hai capito? Perché se mi dà 15 watt in FM me ne verrà anche in AM, no? Giusto, sì o no? No, non è detto. Allora, certi apparati sono fatti apposta. Adesso ti faccio un paragone. Per esempio, il 3009 dà 4 AM e 4 FM. La Linco 12 AM e 12 FM. Invece, alcuni apparati sono fatti per dare molti più watt in FM. E dipende. Io all'epoca non so come fosse quello. Non mi ricordo se è così di fabbrica o se è stato un po' migliorato, non saprei Antonè, ma parecchio così di quegli anni non mi ricordo più niente. Nei cataloghi c'era scritto, no? Cinque elettronica, ti davano tutte le caratteristiche. Io mi ricordo che l'ultimo dei 3, l'ultimo dei 2, quello che mi dava in AM me lo dava in FM, la verità. No, non si muoveva di un millimetro. Perché l'ultimo dei 2 l'ho avuto, quindi anche il Viking addirittura, quindi non cambiava nulla. È strano che qua c'è stato da fare la taratura del trimmer, dove c'è siccome ci sono due finali, c'è 19,69 e poi c'è un altro 1000 e qualcosa, ce ne sei per forza. Devo far controllare con lo strumento siccome c'è scritto. Per fare la taratura bisogna usare il tester, metterlo a massa, come si chiama, allo chassis, e fare la regolazione del 20%. Comunque ricordati, su quello schema potrebbe esserci scritto RF Power. No, RF Power, per lo smitter, S-Meter Power, qualcosa del genere. Per vedere sullo smitter la potenza reale, ecco. Vabbè, Ma io quanto arrivo lì, hai detto? Quanto arrivo lì di segnale adesso? Tu mi avevi detto 9 ieri, o l'altro ieri? Sì, 9, sì. 9, 9, 5. Ma il segnale reale, tu sei 9,15 per esempio, tu c'hai, vabbè, 5 watt, 5 mezzo, 9,15, io dovrei essere una cosa del genere, 9,10, 9,15, lo stesso. Vabbè, ma io ti vedo appena appena con picchi negativi, ma appena poca roba, mi sa di dire poca roba, me la fa fatta a me un apparecchio da 3 anni fa, che è la Lintec, il 410AF, che... In pratica in trasmissione mi dava picchi negativi e ricezione altrettanto. Lo dico di 310F, stazione base, 40 canali. Sì, ma era quello che ti avevo dato io, con lo smitter a ventaglio. Era lo smitter a ventaglio, con lo stazione base, 40 canali. Quello dava i picchi negativi in trasmissione o ricezione, era, però funzionava benissimo, non c'era nessun problema, capito? Era perfetto come radio, si poteva anche modificare 200 canali, ma e chi l'ha mai toccato, non ha fregato niente. L'unica cosa che avevo aumentato era il watt, adesso non mi ricordo come l'avevo fatto, ma li avevo aumentati. Comunque ho letto anche quello. Allora, c'era uno che ha fatto la recensione su YouTube dell'LMS 200, no? E diceva anche che era una caratteristica dell'LMS 200 che in AM con la potenza alta, c'è tre potenze mi pare, con la potenza alta dava leggermente picchi negativi, ma era così di fabbrica, di serie, capito? Non è un difetto, era un po' una caratteristica, diciamo, di quell'apparato. Ho capito, quindi in pratica così sono potenza media 1, 2, 3, 4, 5, 6, guarda come mi ascolti, adesso scendo a 0, così è 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9,10, ma tu 0 intendi la potenza bassa, no? Dei tre scatti. Esatto, sì, dei tre scatti, così lo smitter mi segna Santiago 1, così mi segna Santiago 3 e così 5. E i watt quanti sono? Se c'è lo strumento, quanti sono? Potrebbe essere, che ne so, mezzo watt minimo, 2-3 watt medio e 5 watt massimo. Adesso dico subito, 5 watt e mezzo, ok. 2 watt, 3 watt medio e 0,5 a proprio a 0. Caspita, quando metti mezzo watt c'hai questa modulazione bella più forte, mi caspita quanto guadagna di modulazione, un bel. Allora, c'ho picchi positivi, immagini, ve lo colgo da qua, dal watt. Metto. Fino a 1,5 sale. Sì, sì, molto più forte la radio. Molto più forte, infatti alla fine uno per dentro città potrebbe mettere la potenza media, tanto mi non cambia quasi nulla da 5 watt a 3, quant'è 2,5 a 3, non è che cambi molto e magari ti dà un po' più di radio, da appena appena, però al minimo c'hai un bijou di radio più forte. Sì, per quello posso fare anche una cosa da me stasera, non è che ci voglia molto. Dopo prendo attacco lineare. Lo puoi pilotare anche meglio, vedi? Se con 5 watt e mezzo saturi lo metti a metà e migliora. Migliora. O addirittura mezzo watt, però con la portante solo magari non riesci a pilotarlo lineare, chi lo sa? A commutare. No, già ce la fa un watt, già ha voglia. La voglia ce la fa, c'ho le quattro stazionarie, quindi figurati, me lo fa anche qualcosa, questo difetto qua, perché una volta che lo smitter scende di potenza, sale di potenza sia in M che in FM, perché c'è un palo che bisogna che ne salgo su uno di questi giorni, lo graffio e gli faccio una specie di cosa, li metto la vernice a dominio, perché l'unico modo è così. E quindi capito, Antone, qua la roba sparisce, sarà andato a fare compagnia all'accordatore MFG. Controlla, secondo me è in casa, magari l'avrei messo da una parte, dentro un mobile, qualcosa del genere. Non penso che abbia pigliato una cosa e ci avrebbe buttata nella mondezza, no? Vabbè, che con tua zia si è poco da fidarsi. Ehi, poi avendo molta roba, l'ho guardato nel mobile, ho guardato nella vetrinetta, tutto, guardato. Affannapoli a me che non l'ho messo a posto suo. Eppure lo teniamo sempre qua, mi affianco, nella libreria. Penso ho trovato il Rosbent, lo ZG, quello normale, e non ho trovato questo che sembra un Rosmetro, poi no, c'ha lo stesso lo strumento e gli abbassi watt dalla manopola. Per adesso è da considerarsi perso, poi magari fra vent'anni salterà fuori, per carità, guarda. Ma ero così in malumore ieri. Perché ti ricordi magari dove l'avevi messo, poi non l'hai più cercato, eccetera, eccetera, capita anche a me di mettere la roba a destra, a sinistra. Tu immaginati che io chiamo gli alimentatori, come si chiama, poi vabbè, è capitato che sono andato da i portati della cosa, a me, a Daniele, cosa del genere, e non si ricorda dove l'hanno messo, quindi siccome a volte Giovanna prende, pulisce e scende tutto in garage, capito? E non si ricorda dove li mette. E poi riappaiono, capito? A un certo punto. Eia. Vabbè. No, perché io ero convinto che ieri saresti entrato per terra dello smitter e io non sapevo come abbassare la potenza qua, capito? Per arrivarti tipo 9, facevi 9 sul Kenwood e 9 litri, lo taravi uguale. Mannaggia a me, vabbè, pazienza. Ehi, vabbè, non è quello il problema, non ti preoccupare. Non è quello lì il problema. C'è la terra oscillando, io c'è. 1,4 di stazionare. 1,4 di 3. E vabbè, come oscilla lì, 1,3. Adesso. C'è appena di vento, c'è sopra. Leia, ma che bello quel bip, quanto tempo che non lo sentivo, guarda. Lo so, adesso so come mettere a posto quell'altro 200 canali, sono uguali, sono collegare il filo dello squelch dove c'è il comutatore delle bande, devo collegare. Da lì direttamente al trimmer, poi dal trimmer da lì devo partire alla, come si chiama, devo seguire le, tanto sono quasi tutti uguali, quindi così cerco di sistemare questo quella specie di 200 canali, ecco perché rimane sempre in una frequenza, non si muove, perché motivo lì. E manda, l'hai provato, manda laterale, hai provato quanti watt dà, però dovresti misurarli in PEP se puoi. Possiamo provare, non c'è problema, passa in USB, no, aspetta, sì, USB. Ok, ti centro io, parla un po'. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non è che posso fare, Io USB per un attimo avevi parlato in AM ancora, poi ti sei reso conto e hai commutato in banda laterale. No, non è USM, in FM ci sono uscito, perché qua segna prima AM, poi FM, USB e LSB. Ti dicevo, ho visto questo LMS200, no, di questo tizio che spiegava tutto il funzionamento, tutto, ti faceva vedere la scheda dentro. Era nuovo di trinca, però lo stava diciamo allineando per un amico, credo che sia di quei tecnici che mettono a posto baracchini, no? E fanno sempre i video su YouTube per farci pubblicità. Ho capito. E questo è stato come appena allineato. Allineato di Smitter. Per l'AM naturalmente. Bisogna che vado di lì, come si chiama? Monta il 27310 come integrato. Non lo ricordavo nemmeno. Figurati. Cazzo, quello di Mario Mansega l'avevo modificato io. Immaginate, avevo aumentato di watt, di tutto, avevo fatto di tutto di più. L'avevo avuto anche io, ti ricordi, che gli ho regalato a Mario. Me l'avevo regalato a me e non accendeva. Poi sono riuscito a farlo accendere, avevo cambiato un transistor e sono riuscito a farlo accendere, però rimaneva. Era bello, era. Fanculo a me che non me lo sono tenuto, cazzo. Quei pezzi là non si trovano più, cioè quelli, chi c'ha un baracchino tipo il tuo lo deve tenermi, perché non ne trovi tanti. Per esempio molti Model 3 non ne vedi più in giro, hai in quinto, dico a Sassari, no, vabbè, li trovi su subito.it, su eBay, pochi è, però ti chiedono 200 euro minimo, cioè alla fine lo paghi quanto negli anni 80 lo compravi nuovo, capito? Ah, quello sì. Comunque una cosa, meglio comprare questi che comprare quelli nuovi che stanno uscendo adesso. E quando vai a ripararli ti trovi il finale audio e il finale dello stereo, il TDA 2003. Figurati tu. E il TDA 2003 ha 5 puntali, c'ha. Capito, finale audio. E siccome Gio Maria quando l'ha comprato non se ne è accorto, dice bastrano, dice questa apparecchio che mi dà dei problemi. In pratica gli hanno tolto l'isolatore che collega lo chassis, e in pratica il finale era collegato alla massa, capito? E andava in corto, arrivava a un certo punto, appena scaldava andava, scaricava direttamente allo chassis, e quindi si era bruciato. Quando l'ho svuotato io, cazzo, da lì me ne sono accorto, ho detto cazzo, ma come fai questo il TDA 2003, gli ho detto a funzionare senza isolatore, senza niente, senza. Ho preso e gliel'ho trovato uno per sbaglio di quei finali da un circuito che avevo fatto io, figurati degli anni 80, un circuito audio di un amplificatore stereo, nuovo, gli avevo staccato, gli ho saltato, gli ho messo la vittina, quella plastica piccolina che ci fa insieme alla vittina, e poi l'isolatore, quello in plastica, quella sembra vetro, sembra, già mai capito. Una volta avvitato e collegato, è saldato il finale, ho dovuto fare un casino per saldarlo perché c'erano tre in pratica erano saldati nella piazza di sotto e gli altri cinque puntali nella piazza di sopra. Ho dovuto fare un casino perché era doppio stampato e sono riuscito a farlo funzionare, funziona benissimo quell'apparecchio lì. Sarebbe stato bello avere la collezione anche piccola di apparati dell'epoca, quelli ammiragli, no? Tipo quelli multicanali col bandiera stellare FM, tutto tipo multimode 3, Eigen Quinto, LMS 200, poi c'era quell'altro, come si chiamava, il Maiorecco, poi c'era un altro ancora chiamato, mi pare, aspetta com'era, c'era anche il Lafayette, LMS 230, ti ricordi? E anche altri che adesso non ricordo nemmeno, tutti 200 canali erano all'epoca. Poi c'era il Polmar Oregon che addirittura era 200, quanti canali? 280 canali, può essere? Non mi ricordo la verità, io mi ricordo che erano tutti 200, 226 forse, con i PDCT se ne vanno 226 mi sembra quella cosa. Però il 281 ce ne voleva, ma si può fare, non è che non si possa fare, basta aggiungere un quarto e questo te la tira altri 40 canali in più. Sì, mi ricordo che all'epoca comunque questa storia dei canali ti dicevano anziché 200 canali 226 o come hai detto tu, perché sai perché contavano tutti i canali alfa di ogni banda. Quindi 3, 7, 11, 15, 19, quindi 5 canali in più per banda, 5 per 4, 20, 20 canali in più, più i 10 kHz quando vai, che ne so, sul 120, quindi era un canale in più ulteriore oltre il canale 120, e gli altri non so come li contassero francamente. Ho capito. Capito, dunque ci sono, non è che non ci sia, ce ne sono lì di baracchi in giro e bisogna farsi un giro, hai capito? Bisogna farsi un giro dei CBV che ci hanno buttato in casa, l'apparecchio, lampada di chili, non lo usano e capito? Qualcuno magari trovava pure, dice portatelo via, non me ne faccio niente. C'è un sacco di gente che ce l'ha così, magari in cantina non se ne ricorda più. Io un giorno sono andato da un tipo da... ero con un... con Kosovo, con Daniele, sono andato a casa di questo per fare l'impianto del cancello elettrico e poi ho visto questo baracchino, era un... 1800 è stato un canale, era un 2009. E per questo gli ho detto. E questo mi ce l'ho da pare che ce l'ho più di 15 anni, mi ha detto sono un bel che non lo uso. Perché non lo accende? Non c'ho tempo, mi ha detto, non me ne faccio niente, eccetera, eccetera. E non c'è carriciere, glielo, ma c'avevo la vergogna, cazzo. Allora, 271 canali hai detto, era. Cos'era? 3009? Beh, allora i conti tornano, sono 240 canali normali, più 5 canali alfa per ogni banda, se per 530 arrivi a 270, poi su 120 te l'ho detto, metti 10 kHz, c'è un canale in più, quindi 271 canali, sì. Sono 240 più 31, c'è poco da sbagliare. Eia. Invece, per esempio, il multimode 3 aveva solo 200 canali, cioè solo, erano un bel, capito, 80 sotto e 40 sopra. E poi il multimode era intelligente perché ti metteva i canali di sotto come i numeri negativi della matematica, cioè più aumentavi di canale più andavi sotto. Era logico quello come sistema, ma è bello che all'epoca ci eravamo fatti, anzi addirittura l'aveva fatta mamma, se l'aveva fatta la tabella di corrispondenza dei canali di tutti gli apparati che avevamo e anche per riuscire a comunicare con gli altri. C'era una tabella che faceva vedere, che ne so, tale canale sotto del dell'FM 500S corrispondeva a tale canale del multimode 3, che corrispondeva a tale canale e banda del 3009, eccetera eccetera, capito? Del Viking 2, era brava da quel punto di vista, a vederla adesso non sembrerebbe. Vabbè, cazzo, devi contare che quando arriviamo noi, anche noi a quell'età, ohia, non sappiamo manco dove ci mettiamo la tazzina del caffè. Io già sono incoglionito già da adesso, figurati se arrivo a 80 anni, 81. Appunto per quello, ma comunque, guarda che c'è gente da 84 anni che se ne frega di me, di te, si ricorda le cose, fa un sacco di roba, fammi. Sai quanto ne ho visto da Maria De Filippi lì, da Amici? Chi 94, che 84, cazzo, è più veloce il cazzo di un giovane, cazzo, figurati. E sono abituati a andare tipo, a ballare, capito? Escono di casa, vanno a ballare in coppia, eccetera, eccetera. E così si tengono svegli, capito? Fanno attività fisica, cose così, no? Come siamo noi, siamo sempre dentro casa, che non facciamo un accidente. A un certo punto non neanche ci mettiamo a leggere i libri, niente, no? Il cervello ormai si atrofizza, capito? Come i polmoni, a un certo punto. Sì, quello, lo stile di vita è importante, però lì c'è anche una base buona di DNA buono, Cioè, certe persone proprio invecchiano, a 90 anni le vedi lucide, che si ricordano tutto, anche le cose recenti, hanno una mente bella sgombra, capito? Boh, è questione di DNA, più stile di vita però, più sedentario è, peggio è ovviamente. E infatti, aspetta che ho visto una cosa che mi è venuta in mente adesso. Cazzo, che bello che c'è. C'ho l'omologazione adesiva della Lafayette Spring, omologazione protocollo numero 2, scopo punto 8, articolo 34, codice PT. Dopo col forno scaldo, stacco l'adesivo e ce lo metto nella pagliette LMS 200. No, non avrebbe senso, tanto si sa che è così quell'apparato. Insomma, ascolta, di quelle quattro spie che è frontale, quei quattro led, cos'era? Uno la trasmissione, uno la ricezione, uno immagino le stazionarie, no? AVI, e l'altro cos'era? No, AVI non ce n'è qua. Allora, sono due rossi, uno affianco all'altro, sopra. Uno è trasmissione, e lì ci siamo. L'altro è... in pratica ti segna canali HI, quello a fianco, poi sotto c'è RX di colore verde e LFM colore verde, capito? C'è due rossi sopra e due verdi sotto. Ah, ecco, no, perché non ho la foto sotto mano e non mi ricordavo cos'era. Per esempio, il multimode 3 aveva, se andavi sui canali di sotto avevi la spia verde a sinistra dei canali, mi pare di ricordare, neg, c'è scritto neg, negativi. Se invece andavi sulla banda sull'ultima banda in alto, quella di 120 canali, si illuminava di rosso e mi pare la scritta era AI, quindi canali alti, in rosso, anche per far capire che lì in banda, in zona Cesarini, capito? Già dal 12 della banda alta eri in frequenze amatoriali dove non si poteva andare, ecco. Cioè il multimode già era completo, però il battimento che prendeva, ti ricordi? Sì, tutto bello, c'avevi potenza regolabile, tante cose, potevi togliere il beep, i 10 kHz, bla bla bla, clarifiche, il tune, però il battimento che prendeva, ciucciu. Il multimode era un cesso, era. Se parlavi sotto casa mia come se fosse lo stesso canale. Come l'FM500S era? Per carità. Ma siccome hanno la stessa scheda, con questi tipo Lafayette eccetera, se dovesse entrare uno vicino a te, cosa che adesso non puoi verificare, il battimento lo avresti con quel tipo di apparato? Non lo so dire. Anche perché il vicino non ce l'hai più, la stazione vicina non ce l'hai più, prima ce l'avevi dietro, e lì sì te ne avrebbe dato battimento, dipende dall'apparato. Vabbè. Avevo avuto un bel po' di dolore, avevo avuto mal di schiena. Certo, sì, comunque per i molti modi, cioè avrebbero potuto curare il ricevitore un po' di più, perché prendeva un battimento terrificante. Per esempio il 3009, i Samurai, ti ricordi? Che era simile al 3009, come avevo preso quello era un paradiso, non sentivi il battimento che sentivi con gli altri, era un paradiso quell'apparato. Come si chiamava? Samurai della... non mi viene. Il Samurai era... e poi era chiamato anche Excalibur, mi sembra, una cosa del genere. Comunque era, perché era, diciamo, una cosa metallizzata davanti come 3009, però era bello come è apparato di figura, capito? Sì, praticamente poi io l'ho avuto in tempi recenti uguali, si chiamava Super Jobix 2000, uguale, cromato, display, identico, lo stesso apparato, l'avevo dato al profeta quello. Che poi sostanzialmente il Samurai era come un Galaxy Pluto, però il Pluto era nero e il Samurai era chiaro e cromato, ecco, tutto lì, però sostanzialmente era lo stesso apparato, forse il Pluto aveva appena più di watt di fabbrica, glielo davano già con finali migliori, forse, non mi ricordo. No, era uguale come finali, sempre 1969 e 2166 montato. Poi c'era il modello che le montava 3 e il modello che le montava 2, capito? Io ho avuto quello che montava 3 finali, nero avevo avuto. Poi l'avevo regalato a cosa? A Giuseppe Leoncino, poi Giuseppe Leoncino si era bruciato e per andare da Fabio Master, dopo che gli aveva sistemato, doveva spendere mi sembra 70-80 euro. Non c'era andato, c'era tutto Fabio. C'era tutto da lui mi sembra, quell'apparecchio. Ah, non ha voluto riparare, non ha voluto spendere. Vabbè, peccato. E Fabio già l'aveva riparato. E dunque diceva, no, non c'ho soldi, no, non mi interessa niente, mi aveva detto. E cosa aspetti, che ho detto che te lo compro io, ho detto uno. Non sarei matto, ho detto che te lo avevo fatto. E ho detto, ti metti da parte i soldi, ho detto te lo compri il baracchino. Sì, io dico, vedremo, ancora è così. Un giorno mi ha detto, sai che c'è un baracchino bello su Facebook, ne vogliono, mi ha detto, 70 euro. E ho detto, beh, cosa vuoi da me, che te lo compro io, gli ho detto. Ce l'hai i soldi, gli ho detto, a posto di giocare alla macchinetta, gli ho detto, ti compri l'apparecchio, ci vuole molto, gli ho detto. Ah, c'è quel vizio di giocarseli al videopoker, male. Beh certo, il problema è quello, capito? A volte vinceva, a volte non vinceva. Sì, ogni tanto vinci, però quelle macchinette sono studiate apposta per farti giocare alla fine molti più soldi di quanti le guadagni, cioè sì, ogni tanto c'è le vincite che ti spingono a giocare di più, però se tu conti, che ne so, in un mese, in un anno, quanto ci hai buttato e quanto hai vinto, ti rendi conto che ci hai solo rimesso. Sono studiate apposta, tarate apposta. E per quello già non ci gioco mai io con le macchinette. Qualche volta quando mi capitava pigliavo un gratta e vinci, 5 euro, andavo a grattare, va a far culo, non vincevo nulla, la prossima volta mi perdo 5 euro di birra, almeno me li bevo. Sì, anch'io ogni tanto superando l'8, gratta e vinci no, nemmeno, superando l'8 si può prendere un paio di volte a settimana. Pensa che c'è gente che ha vinto con 2 euro, bilancio e con la visita, con la spesa minima, no, cioè una schedina precompilata, ha vinto milioni di euro, ma non saprei nemmeno come spenderli. È già capitato un sacco di gente, ma è molto difficile adesso, una volta si vinceva un bel, parecchie volte, adesso no, adesso è cambiato tutto. Adesso poi mi con questo affare qua del coso, adesso aumenta il gratta e vinci, aumentano le sigarette, quindi aumenterà senz'altro la birra, il coso. Insomma, gente, mi ha fatto stamattina, si è pigliato Giampiero una mazzotti, cazzo, 4 euro gli ha fatto pagare un bicchiere. Ma al bar? E al bar sotto a casa, sì. Aiuto, scusa Giampiero, se me l'avessi detto sarei andato a comprare direttamente, il ramazzotto in vale costa dietro 10 euro, ma c'era la bottiglia, te lo metti da parte a casa di tua sorella, gli ho detto, quando ce l'hai, gli ho detto, ce l'hai fresco dal frigo e te lo bevi, gli ho detto, ma 4 euro non esiste, un bicchiere te lo ramazzotti. Una birra va bene, ce l'hai 66, tipo soli, arriva 50, di coso, ne escono 3 bicchieri, così no, sta bene, gli ho detto. Sì, ma infatti, Antonio, si è notato, noi quando andiamo al bar, anche con mamma, anche con conoscenti, pigliamo sempre caffetteria, può essere un caffè, un ginseng, un cappuccino, già pigliare un bicchiere di Coca-Cola ti piange il cuore, sto diventando cinese, ti piange il cuore, perché con la stessa cifra ci compri una bottiglia intera da litro e mezzo di Coca-Cola al market. Naturalmente il bar ha prezzi da bar, cioè deve pensare al proprio guadagno. Cioè, se lo vuoi il prezzo è quello, però se vai anche sugli alcolici e super alcolici più che altro, e allora lì si spende veramente troppo. Già lo so, lo dico a me, già lo so. Infatti, ho detto già appena la prossima volta, te lo dice, quando vado nei miei video, ho detto, te la prendo la bottiglia, detto, te la porto a casa, detto, te la metti in frigo, quando vuoi metti un bicchiere di ramazzotti, l'ho pagato, l'ho fatto la tua sorella, sei a posto, detto. E me lo risparmi, sei impazzito, ho detto, spendere soldi così, soldi buttati. Ehi, caspita, 4 euro, uno dice, vabbè, 4 euro, però pensa se fossero in lire. Vabbè, non vale più il discorso, però pensa com'è passato da euro a lire, il doppio, come se fosse 8.000 lire, che adesso, vabbè, non c'è più nemmeno la corrispondenza, perché avrebbero, dal 2001 sono cambiate le cose, però comunque il doppio, cioè se ragioni in lire è una follia, è una follia. 8 euro sono 16.000 lire una volta, più o meno. Sì, poi quest'euro è stata una fregatura, Antonè, perché come ho sempre detto certi hanno raddoppiato i prezzi, d'altronde non ci sono prezzi imposti, per certi articoli il venditore fa il prezzo e quindi hanno proprio raddoppiato i prezzi. Tanto la gente, come dire, se è costretta a una cosa la compra lo stesso. Però non c'è proporzione tra l'euro quando è arrivato e gli stipendi. Sì, magari qualcosa in più, ma poi dopo pandemie, guerre, tutto sale di prezzo. Non, come hai detto tu, d'Eurospin prima si risparmiava molto di più, adesso si risparmia meno. Le confezioni sono più piccole a parità di prezzo. Ti trovi che ne so, il salumi, gli affettati, anziché 100 grammi, un etto, se vai a leggere dietro vedi 80 grammi per certi salumi e il prezzo è uguale se non aumentato, capito? E così ci fregano due volte. Hai visto l'altro giorno, quando ero con te, 50 euro mi sono riempito la busta, quando ce l'ho fatta a sollevarla, a metterci le macchinate, tu immaginati quando sono salito nell'ascensore mi sono fatto quella lampada a piedi, non avevo niente, non riuscivo neanche a camminare. Figurati tu, meno male non ho, c'eri tu, non l'ho fatta a piedi, se no già avrei avuto il corso. Però ho risparmiato, cazzo, gli ho fatto vedere i mandarini a Giovanna, mi ha detto, dove li hai presi? Mi ha detto, dai medici, mi ha detto, 90 centesimi, mi ha detto il chilo, vengo. Mi ha detto, già se li prende, stasera domani. E tu qua ci sono gli sconti, ho detto vacci subito. Poi ho preso il salame, quello come si leva, gli ho detto no, quello lo spinge, quando lo compri, lo metti in freezer, gli ho detto dopo due giorni tutto bianco diventa, tutto pieno di muffa. Ma come, diventa bianco di muffa pur mettendolo in freezer? C'è il freezer, il frigo va, non lo fa in freezer il salame, quello già tagliato, va in frigo, capito? Tutto bianco, l'altra volta ci ho buttato una busta intera di quel salame, due lampade della mondezza in pratica, capito? Perché lo sai che passano dal frigo, come si chiama, al frigo del deposito, dal deposito al frigo del camion, dal frigo del camion direttamente poi al deposito del, come si chiama, dello spin, dal deposito dello spin, entra dentro in quei freezer lì, quindi a un certo punto apri, togli, a un certo punto ti si forma l'umidità all'interno e siamo fisce. Magari l'autista dei camion, metti che funzioni male anche il frigo del camion, stanno zitti e consegnano lo stesso la merce, e magari è mezza andata, mezza variata. E no, ma portano, e sono le uova, e queste uova di Rossi, quelle piccoline, quelle più di una volta, sai quante ci hanno buttato di quelle uova lì? Ui, non è vero. Ma piccole intendi quelle normali, no? Vabbè, io prendo le XL, quelle un po' più grandi, mi piacciono più grandi le uova frittate, cose del genere, uova sode eccetera, vabbè. E poi con le uova bisogna stare attenti a salmonella, roba del genere, però quello, vabbè, lì non puoi fare niente, ti può andare a... Se se ne accorgono ritirano il prodotto, ma se tu l'hai già comprato rimani fregato. E mica te lo torno solo dietro. Una volta mi era capitato di prendere un pollo, era sigillato, cosa del genere, arrivo a casa, tolgo il sigillo, sento questo odore di puzza di coso, cazzo, di marcio. Ho perso, sono tornato indietro. Questo pollo è così, ma lei dove l'ha messo in freezer? No, io in freezer non le metto, gli ho detto, io l'ho messo in frigo, detto. Appena sono arrivato a casa l'ho detto subito, gli ho detto, l'ho messo in frigo e poi la sera gli ho detto l'ho cucinato, gli ho detto. Quindi, potrebbe essere anche perché l'ha messo, e dove lo mettevo? In culo dove lo mettevo il pollo? E tu mi cambi immediatamente il pollo, se no chiamo la finanza, gli ho detto. Allora ha chiamato il responsabile e me l'ha giambato. Dice, lo so che c'ha ragione, si sente un odore, dito è, detto, ma lei si avrebbe mangiato il pollo così? Dice no, e allora cosa vuole? Me lo mangio io, gira. Però se va a fanculo, gli ho detto, lei è il pollo. Ma questo qual era? Eurospin di via Carlo Felice? Quello di via Carlo Felice, sì. Sì, poi ti danno la risposta in base a cosa dici tu. Se tu gli dici, l'ho messo in frigo, subito lo dice, no, lo doveva mettere in frigo. Se gli dici che l'hai messo in frigo, ti dicono, no, lo doveva mettere in frigo, capito? Hanno sempre le risposte, come dire, in base a quello che gli dici, fornisci tu come informazioni. Carità. No, se compri quello che vi vendevo una volta il pollo, quello era in frizzer, è logico che lo dovevi mettere in frizzer. Però adesso i polli, ci sono quelli che sono in frizzer e quelli che sono normali, che sono il frigo, quello che apri, quello verticale. Io se prendo un pollo lo prendo da lì, hai capito? Bene, io ancora sto cercando di pensare dove cavolo può essere finito quello strumento, boh, guarda, E te l'ho detto, Antonio, qua troppa gente ci mette le mani, sì, ci aiuta quello che vuoi, però certe volte, guardami, ecco perché non voglio che... ce lo so io dove metto certi oggetti, capito? Non voglio che vengano spostati da sinistra a destra, da destra a sinistra per fare questo presunto ordine. E poi io non sono ordinato, c'è chi lascia ordinato e chi no. Io sono casinista, resterò casinista, non è che cambio, ricevi, cambiare, no, sono casinista e buono. Però almeno la roba nel casino so dove trovarla, capito? E io altrettanto, figurati tu. Poi stavo parlando con mamma ieri, no? E... sì, che c'erano amici che avevano le stanzette perfette, no? Che non vedevi nulla, non vedevi nulla in giro, nulla. E io gli ho detto, ma sai chi c'ha? Io me li ricordo i compagni di scuola, amici, eccetera. Ma sai chi aveva la stanzetta tutta perfetta, in ordine? Chi non aveva un cacchio di niente. Chi non ha niente, non ha niente da mettere in mezzo, eccetera. Cioè, qua ti apri, una GBC ti apri un negozio di ottica, tra telecamere, macchine fotografiche, cioè, se dovessi contare tutto, tutte le passioni varie accumulate negli anni, qua c'è da aprire un Portobello nuovo, solo di roba che c'ho io. E quindi l'ho detto con la mamma, chi non ha un cavolo di niente, è chiaro che c'ha la cameretta in ordine. Io sono un accumulatore seriale e ho roba ovunque, in ogni cassetto, in ogni armadio, anche sul tavolo, ricevitori, cose, di tutto e di più, è un coso. D'altronde, esco, se la roba ti piace la compri. Accumulatore seriale, adesso mi permette una persona che ha tutte le scatole aperte, appena entri ci passi solo tu. Vabbè, io quando dico che sono come GBC lo dico scherzando, sì, io già ho le scatole, i baracchini sopra l'armadio, altre scatole le ho tenute bene, ma non così che trovi gli scatoloni in mezzo, quello vabbè, lo dico per ridere. Per esempio, mi dice cosa il maresciallo, perché non li butti quelle scatole? Sì, io ho tutte le scatole i baracchini, perfette, in perfetto stato, dentro ho tutte le istruzioni, lo scontrino, le garanzie, lo scontrino anche per vendite future, per dimostrare che non è roba furata, ho tutto documentato. E dice, buttale, tanto cosa te ne fai? Ma lascia perdere, a parte che le scatole di 3.900 se le vendevano a 50 euro, la scatola vuota dei 3.000 se la vendevano a 50.000 euro, ma 50 euro su eBay, lo sai, e c'è chi le cercava perché voleva la scatola originale della radio, capito? Sì, ma quelli sono dei soviti, c'è gente che sta vendendo pezzi, roba per pezzi, 100 euro, cosa del genere, hai capito? Ah, vabbè, cioè se l'apparecchio non funziona, prendi e lo regali, non è che te lo vendi per pezzi, non te lo vedi a fare. Va. E poi non sai, ma quando uno lo compra non sai qual è il pezzo bruciato oppure no. Se no, se c'è lo stesso problema ce l'hai avuta in culo, è inutile che hai comprato 100 euro di cose. Sì, gli apparecchi moderni, guarda, puoi fare affidamento solo su due anni di garanzia. Per esempio la Intec, le radio magari te le assisteva entro la garanzia, c'era al di fuori della garanzia, poi ti dicevano, potevano dirti che non avevano pezzi di ricambio, che non avevano integrato, eccetera. Però anche i vecchi adesso, chi è che te li ripara? Cioè, hai visto quando Natalino ha avuto problemi col 3.900? A Sassari non c'era una persona che lo riparasse, perché Vittorio sa già la sua attività, non vuole stare a stare con i CB che fanno la processione, che vanno a portargli i baracchini su baracchini. Lui sa già le sue cose più importanti, assistenza ufficiale di quelle marche di altra roba, ma quindi non ne ha voglia. E anche l'altro radioamatore non è che lo puoi oberare sempre di richieste, alla fine si buria, lui ha tante cose da fare, il lavoro, la passione, l'hobby, insomma, non è che può stare sempre con il CB appresso, riparami questo, no? Per esempio, se ti si rovinasse un apparato così dall'oggi al domani, tu da chi lo faresti riparare? Hai visto l'unico riparatore che c'è attualmente attivo in Sardegna di apparati, di cibi, di baracchini, parliamo dei baracchini volgari, i baracchini di una certa età, no? Con i componenti classici, ci deve uscire a, come si chiama quel paese, dove era stato anche Carlo, non mi viene. Mi sembra vicino a Bonova, adesso non mi ricordo. Beh, un nome di paese che non mi viene mai in mente, sì, comunque sì, cioè, devi farti, non so quanti chilometri siano, 50-100 chilometri, però a Sassari città non ne fa nessuno. Finché hai conoscenze tu, cioè che te lo puoi riparare in proprio o in contro, ma se ti serve una riparazione seria, vera e propria, con strumentazione, a Sassari non ne fanno più. Cioè, non ne voglia nessuno, potrebbero farlo però con impegni, lavoro, hobby, capito? Vabbè. Infatti, devi arrangiare, salta arrangiati, bisogna fare. Il problema adesso è che quando vai a cercare i pezzi, o ne pigli 50 se non te ne danno. Che due, manco te ne manda, manco per la vergogna. E quindi Antonio, quel discorso che volevo fare io, che tu abbia un apparato SMD moderno, no, un baracchino SMD, un baracchino con componenti classici, nessuno te ne ripara, oggi come oggi, se non è in garanzia, ti capì? No, se è SMD sei fregato, cioè buttare, ti ho detto, io ho quel VHF, SMD, e c'è quel componente lì. Magari costa 50 centesimi, tanto per dire, però a farla arrivare dalla Cina è un casino. Capito? Perché uno non te lo danno. Io devo chiedere una quarantina di pizze di quello. Già me ne voto, me ne stacco in culo, me ne stacco. Se non avevo provato me l'avevo salato io. Piano piano. Ci vuole un fuoco, ci vuole una pinza e mano ferma, staccare uno, agganciare l'altro, eccetera eccetera, perché purtroppo funziona in trasmissione, c'è l'audio, c'è tutto, è solo l'incezione che era partita, tutto lì. Poi vabbè, schema elettrico non ne ho, perché non c'era dentro la scatola. Io quando ho visto la scatola, l'ho controllato, non c'era un cazzo dentro. Aspetta, di quale apparato stai parlando adesso? Di quello cinese, Linksen. Stavo pensando a altro. A un altro radio, là. Vabbè, quindi comunque anche per gli apparati... gli apparati anche così, però te l'ho detto, l'assistenza a chi la fa? Che stai, devi cercare integrati, coso, magari non li trovi, magari, vabbè. E insomma, i baracchini alla fine sono come cellulari, quando c'è un problema serio si butta e basta. Oppure lo vendi come pezzi, cioè non funzionante, si tolgono i pomelli, il frontalino, sai, le solite cose, no? Il display, tutto quello che si può recuperare se lo recupero. Te lo vendi rotto per pezzi vari, da. Può essere la staffa, il microfono, quello che è, il cavo d'alimentazione, tutte le finiture, dai. Vabbè, no, i telefoni erano sempre regalati, quando erano già tipo Samsung, tanto per dire che a funzionare funziona, è perfetto. L'unica cosa che è del 2017 e quindi non c'hai più la memoria di prima, capito? Devi espanderlo, fargli la programmazione nuova, eccetera, eccetera, capito? E quindi ce l'ho qua buttato. Poi ne avevo uno, c'era il vetro rotto, ho chiesto, cazzo, 70 euro mi ha sparato, 70 euro, ho trovato, è talcona, me lo prendo nuovo uguale. Ma tu stai scherzando, ho detto 70 euro un vetro, ho detto a cambiare. E cioè noi pigliamo così, ma zitto, e allora gli ho detto, arrangiatevi, già me lo compro nuovo, gli ho detto. Sì, infatti, a seconda di qual è il danno, non vale la pena. Bene, oggi è una giornata di sole, bella, un po' di venticello c'era. E, vabbè, oggi non sono uscito.